Ciao a tutti e a tutte, e voglio condividere due brani di Drummond de Andrade, che era un poeta brasiliano ma anche un grande cronista sportivo. Beati coloro che non si intendono né aspirano ad intendersi di calcio, perché di essi è il regno della tranquillità. Beati coloro che, intendendosi di calcio, non si espongono al rischio di assistere alle partite, perché non torneranno delusi o infartuati. Beati coloro che non hanno passioni di squadra, perché non soffriranno da gennaio a gennaio con appena qualche pizzico di allegria a titolo di balsamo, o neppure questo. Beati coloro che non scelgono, perché non verranno offese le loro madri, il loro sesso contestato e la loro integrità fisica minacciata all'uscita dallo stadio. Beati coloro che non sono scelti, perché eviteranno fischi, proiettili, contusioni, fratture e anche la precaria gloria di un giorno. Beati coloro che non sono cronisti sportivi, perché non dovranno spiegare l'inesplicabile e razionalizzare la follia. Beati i fotografi che sono passati dallo sport alle sfilate di moda, perché non avranno bisogno di perdere un tempo interminabile per fotografare il lampo di un gol. Beati i fabbricanti di palloni e di scarpette, perché non riceveranno i primi in faccia e le seconde nelle palle, come gli atleti e gli occasionali assistenti alle partite. Beati coloro che non sono riusciti a comprare la televisione a colori in tempo per seguire la Coppa del Mondo, perché, assistendovi dall'apparecchio del vicino, soffriranno senza pagare 20 rate per la sofferenza. Beati i sordi, perché non li raggiungerà il frastuono dei petardi della vittoria, che produce altri sordi, né il vociare dei cronisti, carenti di esorcismo. Beati coloro che non abitano in strade di tifoseria istituzionalizzata o nelle loro immediatezze, poiché raccoglieranno solo il 50% del baccano preparatorio o celebrativo. Beati i ciechi, poiché sarà loro risparmiata la tortura dello spettacolo diretto o trasmesso per televisione della marcatura serrata che paralizza i campioni o dell'evento imprevedibile che ne distrugge l'invincibilità. Beati coloro che sono nati, hanno vissuto e sono morti prima del 1863, quando sono state codificate le leggi del calcio, poiché sono sfuggiti ai tormenti della tifoseria, compresi gli attacchi cardiaci inflitti tanto dalla sconfitta come dalla vittoria della squadra preferita. Beati coloro che tra il pallone e il bottone si contentano di quest'ultimo, soprattutto se della camicia, poiché si consoleranno più facilmente se perderanno il bottone piuttosto che la gratificazione della vittoria. Beati coloro che nel momento della partita internazionale riusciranno ad ascoltare la sonata di Albinoni, poiché di essi è il regno dei cieli. Beati coloro che non confondono la sconfitta della squadra della Lapponia da parte della squadra della Terra del Fuoco con la vittoria della nazionale della Terra del Fuoco sulla Lapponia, poiché essi non saranno preda di sentimenti di guerra. Beati coloro che, dopo aver ascoltato questo sermone, impegneranno tutto il loro ardore infantile nel petto maturo per desiderare la vittoria della nazionale brasiliana in questa e in tutte le future coppe del mondo, come fa il vecchio predicatore disincantato e tuttavia tifoso, poiché al diavolo va la ragione quando il calcio invade il cuore. Un'altra breve poesia che si chiama È sfumata la coppa? È sfumata la coppa? Non importa. Addio calci e sistemi. Potremo finalmente pensare ai nostri problemi. Non c'è stata inflazione di punti? Perdura l'inflazione di fatto. Smetteremo d'essere gonzi se colpiremo il bersaglio esatto. Il popolo, in altro torneo, mostrando tenacità, vincerà con forza e appieno la coppa della libertà.